uguaglianza e il nostro articolo 3 della Costituzione, che è semplicemente quello cui richiamarsi, è bellissimo dopo tutto, e sta lì da decenni totalmente inapplicato, e questa è una piccola manifestazione di quella non applicazione, ecco.